Io mi permetto dire che l'espressione è brutta. Suggerirei un'espressione che tanti anni fa, trattando di altro argomento, di bere, io tirai fuori un'espressione più vezzosa: cittadine borbigiane. Forse non esattamente più vezzosa. E quindi gli storici devono essere un po' così, frivoli, devono amare anche la bellezza. E ha messo in rilievo l'importanza delle signorie, distinguendo le signorie che piano piano svaniscono, che non esistono un'impronta, e delle signorie invece, come quelle di Camilesi e Treviso, che non sono, sebbene i Camilesi di Treviso e Treviso non possono definirsi signorie cittadine. Ora, poi ci sono le comunità di valli, c'è l'importanza dei valli, che non rientrano completamente all'interno del territorio cittadino. Ci sono numerose signorie di castello, eccetera. Ci sono numerosi signori che non solo si oppongono, anzi, non tanto si oppongono a una politica di creazione di un territorio da parte della città, quando combattono la città da dentro. Io ho ripubblicato proprio in questi giorni il bel libro di Romeo, intitolato Male, con un mondo rurale di origine, cioè la signoria di origine, un corso come rurale di origine. Il titolo del testo La signoria rurale di origine è dove Romeo sostiene l'importanza per lo svolgimento della vita politica cittadina del comune del peso delle signorie possedute da singoli cittadini. E giustamente Baranini ha ricordato che il principale esponente proprio della parte di popolo di Milano, i Toriani, nel 1287 hanno cura di procurarsi un'importante signoria rurale, quella di Turbino. Quindi le signorie rurali hanno ancora una importante funzione, non soltanto una funzione eccettuativa rispetto al territorio di Fiorello Settuscuendo, non soltanto una funzione di forza ritardatrice a senso unico, no, ma hanno una funzione proprio all'interno di questo centro che diventa sempre più la città. E io sono stato colpito dall'affermazione di Baranini che nella differenza che esistono tra la prima metà del 200 e la seconda metà e la fine del 200. La prima metà del 200, la politica di costruire la costruzione di un territorio attorno alla città pareva ben avviata, mentre la stessa politica incontra molte difficoltà nella seconda e ancora più verso la fine del 500. Ora io vorrei capire, perché proprio non mi rendo conto in questo momento, perché cos'è successo nella signoria? La signoria che ha signoria rurale territoriale, non signoria fondiale, non più signoria fondiale, signoria che essa stessa è un territorio. Secondo me, insieme con l'organizzazione ecclesiastica, la signoria territoriale e l'organizzazione ecclesiastica sono il modello sul quale nasce la creazione di un territorio da parte della città. Allora, cos'è avvenuto nell'ambito della signoria? Levanto un'ipotesi estemporanea dicendo forse nel 200 una certa crisi che c'è nell'ambito delle signorie crea una selezione delle signorie più deboli, perché nella Valle Padana sangria che è diffusa quasi capitalmente, ma c'è una grandissima differenza tra signoria e signoria. Alcune possono chiamarsi banali, che hanno i poteri, che hanno i poteri di danno, altre no, hanno poteri molto limitati, anche nel campo esattamente giurisdizionale. Quindi ci può darsi che si è creata una crisi delle signorie, cioè sono basse le signorie più deboli, insomma, e quelle rimaste nella seconda guerra del secondo, le soluzioni del secondo terzo si sviluppano e possono più facilmente contrastare la formazione di un territorio da parte delle città. Comunque, io credo che per meglio cogliere questo fenomeno, e Guadagnini l'ha in parte fatto, ma io ho risorto a insistere su questo aspetto, bisogna veramente studiare tutte le forze in campo, tra 200 e 300, studiarle nella loro formazione, nel loro massimo splendore del XI e XII secolo. Il Guadagnini ha sostenuto che le formazioni di territori da parte del XII sono velleitarie, cioè sono inconsistenti, ma molto probabili. È un tema che andrebbe approfondito. Io ritengo che vadano approfondite tre momenti. Uno è stato già accennato precedentemente, non ricordo da chi, nella prima relazione, il momento a Lavoro Santo, il momento di Enrico IV, il momento della lotta per le investiture, dove si creano i principati, quello matitico e poi si risolve, quello d'Este, che non so fino a che punto diventi cittadino, comunque prima di diventare cittadino deve scegliere una città. È un principato in formazione e il primo nucleo è il monastero privato della Valdannizza, è un privilegio di Niccolò IV. Il secondo momento è il momento di Barbarossa e il terzo momento è il momento di Federico II, che si spiega, è più debole perché Federico II è stato più debole nel Regno Italico e perché d'altra parte sono già avanzati dei processi di espansione cittadina, eccetera. Ma tante quasi città, anche per la Toscana, anche per Savignano, per la Val di Nievole, si ha l'impressione, sono questi territori, hanno avuto una certa consistenza per opera di Federico Barbarossa, hanno avuto un funzionario territoriale posto al titolo che viene sospeso il posto di una signoria territoriale e poi il territorio che viene inglobato o dai possessi di una chiesa, da un principato in luce ecclesiastico di Lucca, oppure da un territorio di una città. E molte volte si ha l'impressione che questi territori di quasi città e poi diventeranno diocesi all'origine, al principio dell'età moderna, e penso Savignano, si ha l'impressione che abbiano, ore tante, che abbiano Valdinievole, eccetera, che abbiano un'origine molto remota. Forse ti ricordo della gestione di Cognetti che non mi fa escludere che abbiano origine romano e romano addirittura, è un tema che stiamo seguendo adesso. Ma nell'insieme, ecco, io vorrei un po' attenuare l'impressione che il fenomeno della costruzione, dell'organizzazione territoriale in Italia sia un fatto soltanto cittadino e neanche prevalentemente, di gran lunga e prevalentemente cittadino. Anche perché io sono rimasto fermo a una reazione contro la accessiva, accessiva centralità della città, della storia d'Italia, anche di Passo di Treno. Io organizzavo 40 anni fa contro Sapori, contro Fruttato, contro Fanfani, contro la cultura del mercante, allora la città era del mercante. Adesso mi trovo a polemizzare con le mie retroguardie contro la città omania che si è sviluppata qui a Trento in due settimane precedenti. Questo ha solo valore di freno, di compensazione, perché la storia va avanti con sviluppo dialettico. Quindi io questo volevo scrivere con ferro espresso, perché avevo di fronte due relazioni veramente eccezionali. Cui grazie. Sarebbero molti spunti da cogliere, ovviamente tanti aspetti anche toccato. Per esempio, per quanto riguarda Federico II, ce ne siamo occupati l'anno scorso nel convegno a Erice, e così pareva un discorso tutto sommato condiviso che questo rapporto con le città italiane appunto fosse sostanzialmente l'altro, cioè la presenza dell'imperatore incide, conta nel momento della sua fisica residenza in un'area territoriale, ma appena la presenza dell'imperatore non c'è più, riprendono favore appunto le forze davvero che parte del territorio. Ma poi non so se gli spunti sarebbero molti, ma non scusiamo se mi permetto una cosa sola generale rispetto a quest'ultima città omania che si è sviluppata a Trento. Ecco, io direi di tenere presente questo, anche a me così è capitato anni fa, anzi quando ho cominciato a occuparmi di queste cose, la reazione è stata contro l'urbanocentrismo della storia italiana, non di molto spesso. E direi che altre cose che così sto facendo si continuano a fare, continuano ad essere in questa direzione, i tempi, le quasi città, eccetera, perché mi sembra giusto, come ha fatto Baranini giustamente, così dosare e calibrare il senso. Quando però, e forse non per questo, Trento diventa un luogo in cui questi discorsi acquistano, vengono visti in una prospettiva un po' diversa, quando però si compara globalmente una situazione come quella dell'Italia centro-settentrionale rispetto a situazioni d'oltralpe, ecco, non si può secondo me non notare, con tutti i ridimensionamenti e le sfumature del caso, un ruolo molto diverso della città di qua delle Alpi, della Padania e Toscana e della Adriana. Questo è sempre. Ecco, e allora forse non è un caso che proprio a Trento venga da questi discorsi. Scusi se allora mi vorrei dire, a proposito dei discorsi di Erice e di Terzo Cipolle, c'è la mania in Italia di studiare sempre Federico II e Federico Barbarossa in rapporto con le città, mentre il tema da studiare sarebbe la politica di Federico Barbarossa soprattutto e anche Federico II e Federico. Non si è sentito allora, scusate. Sì, non si è sentito. Proviamo un pezzo della frase. E studiare un polemizzato contro la grandine storiografica italiana di voler sempre considerare Federico Barbarossa, soprattutto, e anche Federico II, e il sesto, in rapporto con le città. Mentre credo che sia più importante, anche perché non studiato, considerare Federico Barbarossa, Enrico VI, Federico II in rapporto con le campagne, la politica di questi con le campagne. Questo è lo spunto che mi interessa. Ci sono domande? Prego. Due osservazioni, una riguarda quasi città toscana, e volevo dare, questo può sembrare una sottigliezza, ma trova molti riscontri nel resto dell'Italia centrale, per questo mi piaceva sottolinearlo, cioè che sono molto differenti dalle terre separate di area padana, perché sia diciamo originariamente, perché non vengono separate da contadini i processi successivi, ma in qualche modo almeno Prato, San Gavignano e poi molte altre marchigiane, cioè centri che non sono vescovili ma diciamo vivono in su di città, e appunto insieme alle città vescovili hanno tutte o quasi tutte un diciamo un territorio sia pure minuscolo sia pure minimo. E credo che questo sia un carattere dell'Italia centrale che non deve essere ricordato e che si differenzia da tutte le separate. Un'altra osservazione riguardo la coincidenza con le circoscrizioni ecclesiastiche, credo per la mia opinione che il caso fiorentino sia molto peculiare a questo proposito. E vorrei sottolineare un altro elemento peculiare anche per le peculiarità insediative. Diciamo che gli insediamenti del contado fiorentino, che sono molto frammentati e molto sparsi, risultano in qualche modo congeniali, come ci ha insegnato il professor Violante, alla stessa circoscrizione di Pieve, mentre altrove, ovviamente il caso di Siena che conosco da vicino, si trovano delle controprove dove c'è un insediamento frammentato, viene utilizzato il sistema Pievano, le circoscrizioni che riciclano quelle ecclesiastiche, dove c'è un insediamento per castelli, quindi con tutte altre, con organizzazioni sociali e istituzionali molto diverse, prevale la circoscrizione del comune, del comunità, che taglia quelle dei divieti in maniera anche molto evidente, e questo si verifica anche in altri casi che sono stati evidenziati in altre occasioni come Assisi o altre situazioni. Grazie. Domande, osservazioni? Professor Rivolai, grazie. Ich habe drei Fragen. Die erste Frage ist, welche Bedeutung messen Sie für die von Ihnen geschilderte Entwicklung dem Frieden von Konstanz bei, konkret? Die zweite Frage ist, welche Bedeutung messen Sie dem Einfluss des römischen Rechts bei, für die frühe Entwicklung dieser Territorien? Denn die Zeit, die Sie, auf die Sie am Anfang hingewiesen haben, das frühe 13. Jahrhundert, das ist die Zeit, in der die Rezeption des römischen Rechts, des gelehrten Rechts, des kanonischen Rechts, also überall in den Urkunden deutlich zu fassen ist und kontinuierlich fortschreitet, auch in Deutschland. Und ich persönlich bin überzeugt, dass dies für den Territorialisierungsprozess im 13. Jahrhundert eine ganz große Rolle spielt. Und hier sehe ich eine deutliche Parallele zu Italien. Und was habe ich noch? Ja, die dritte Frage ist, woher kommen eigentlich diese beherrschenden Adelsgeschlechter in den Städten? Weiß man etwas über ihre Herkunft? Also wo ist Ihr Ursprung? Was sind das für Familien? Später sind sie unangefochten und bedeutend, aber wo ist Ihr, sind das große Allodialherren, sind es frühere Ministerialgeschlechter oder Reichsvasallen? Also ich habe da gar keine Vorstellung. Im primo periodo comunale, nel periodo di Formazione. Allora, non è chiaro, le tre domande sono l'importanza della pace di Costanza, l'importanza del diritto romano, soprattutto nel XII secolo, perché c'è un parallelismo anche con la Germania, mi corregge se. E da dove vengono queste stirpi signorine che troviamo attive e leggevoli in città nella fase della formazione del Consiglio? Sì. neanche della popola, il problema dell'importanza della pace di Costanza su certi aspetti della politica di formazione cittadina del Costanzo non ha un valore strettamente discriminante. Ovviamente, per esempio, un recente articolo di Settia relativamente alla politica di costruzione dei borghi franchi della città del Contrato, nel quale si dimostra chiaramente che è una dinamica, diciamo così, che le città comunali perseguono prima e dopo appunto questo discrimine, diciamo. Così come l'idea, l'obiettivo dell'affermazione dell'autorità cittadina fino ai limiti del territorio diocesano ed oltre, anche questo è presente ben prima, insomma, no? Basta ricordare i casi di Milano o le guerre tra le città venete della metà del XI secolo. È chiaro che dal punto di vista della legittimazione, il momento insomma, è chiaro, è discriminante decisivo, che permette poi ai comuni cittadini di ampliare la gamma degli strumenti giuridici dei quali avvalersi nella formazione. Può essere che, per esempio, non sia un caso che il Liber Iurium del Comune di Verona, che citavo prima, compaia e sia documentato proprio nell'anno 1184. Ecco, è ovvio che una occasione come la pace, che poi è una concessione, come ben sappiamo, di Costanza, stimoli i ceti dirigenti a mettere le carte in tavola, a documentare, insomma, ecco, ma le linee della politica cittadina esistono ovviamente appunto ben prima. Ecco, sì, per quello che riguarda il discorso appunto della circolazione appunto del diritto romano, credo che non ci sia nulla da dire, perché ovviamente si riconosce la grande importanza di questo fenomeno. Non mi pare che appunto si possano vedere facilmente, se non per quanto riguarda lo sviluppo delle procedure processuali eccetera, si possono vedere agganci specifici, diciamo così, impatti specifici con i problemi appunto dei quali ci siamo occupati qui, insomma. Ecco, e il terzo discorso è ancora più complesso, potrebbe rispondere il professor Pirante, non io, ma l'aristocrazia, diciamo, il castello titolare appunto delle signorie del Contrato ha un'origine la più varia, insomma. Ci sono grandi dinastie regionali come Sieste o il Pallavicino, ci sono i funzionari vescovili della città, gli avvocati, i portinari, eccetera, ci sono famiglie di mercanti del XII secolo che diventano tranquillamente nel corso del XII secolo titolari di signorie di castello. Naturalmente un discorso di ministerialità come lo si fa per altre aree vale soltanto per poche città italiane. L'altro giorno Camarosano citava il celeberrimo documento di Treviso della seconda metà del XII secolo, lo citava a ragion veduta perché è una delle situazioni comunali, diciamo, italiane, nelle quali l'apparato della vassallità vescovile ha un raccordo più chiaro, più evidente e più anche numericamente consistente con l'esercizio dell'aristocrazia nell'esercizio dei poteri numerici nel Contrato, ma ovviamente appunto l'origine è assolutamente eterogenea. Ja, haben wir auch den ersten Punkt, den ich mir heute nach der Friede für Konstanz für diese Entwicklung an und für sich dieses Klares in den Grenzen schon. vorher eingesetzt haben. Am Beispiel von Mailand kann man sagen, dass diese Erwerbung des Kondato ganz deutlich schon vor dem Frieden von Konstanz ja nicht in den Anfängen, sondern sehr massiv erfolgt. Aber trotzdem hat der Friede eine offizielle Legitimation eben für die weitere Vorgangsweisen in der Bahn, die schon vorgezeichnet ist. Es ist kein Zufall, dass eben dieser Text des Friedens von Konstanz nicht selten am Beginn der offiziellen Aufzeichnungen der Statuten steht. Es beginnen die Statuten mit dem Text des Friedens von Konstanz. Und das zeigt doch, dass man sich dessen bewusst war, dass damit eine neue Ära sozusagen beginnt. Der zweite Punkt, der Einfluss des Römischen Rechtes auf die Entwicklung, da ist eine sehr allgemeine Aussage möglich. Es hat einen großen Einfluss gegeben, auf die Vorgangsweise etwa, aber ich habe nicht entnehmen können, dass man das in direkten Zusammenhang etwa nehmen könnte. Ich weiß auch nicht, ob es etwa Reflexionen gibt der Rechtsgelehrten über das römische Recht und die Anwendung auf diesen Prozess. Ich weiß nicht, ob so etwas vorliegt. Anscheinend ist es nicht der Fall. Das dritte, die Herkunft der Aristokratie in der Stadt generell, sie kommt aus sehr verschiedenen Wurzeln. Es können Adelige sein, die von ihrer Abstammung her also in höchsten Ebenen anzusiedeln sind, die Äste etwa oder andere wirklich hoher Adel. Es können bischöfliche Funktionäre sein. Es können auch Kaufleute sein, die seit dem 11. Jahrhundert in diese Adelsschicht aufgestiegen sind. Die Frage der Ministerialen ist in Italien nicht so aktuell wie im Norden. Es gibt nur manchmal Hinweise, dass man also ähnliche Überlegungen anstellen könnte, mit einem Revisor. Ganz generell, diese Adelsschicht, die im 12. Jahrhundert in den Städten eine große Rolle zum Überspielen beginnt, also in der Stadt, nicht in jeder Stadt, sondern in der Stadt, ist sehr heterogener Herkunft. Ma forse si sente lo stesso? La mia vicina non è una cosa. Volevo fare una domanda a Varanisi in relazione proprio a uno dei punti ultimi, quasi ultimi della sua relazione. In questo senso, tu hai detto, hai parlato di una assenza di visione strategica in Visconti, Gian Galeazzo Visconti, in relazione alla sua politica rispetto all'assoggettamento delle città. E poi hai detto che di fatto alla fine di tutta questa vicenda Gian Galeazzo può sembrare nelle regioni periferiche come il restauratore delle prerogative cittadine. Ora io volevo chiedere questo. E forse la risposta potrebbe in qualche modo collegarsi alla domanda sull'influsso del diritto romano in qualche maniera. Io credo tra l'altro che ci siano dei consigli di giuristi in relazione a questi problemi, ce ne sono parecchi forse da alcune parti. Ecco, per quale motivo queste prerogative cittadine vengono poi di fatto rispettate? Io, ecco, la domanda la faccio in questo senso, io non credo, o almeno credo poco, che si tratti di assenza di visione strategica, non si può imputare a Visconti come a nessun altro princeps di non avere determinate tendenze, diciamo, politiche di accentramento in questo senso, no? Se le città o anche altri centri, non specificamente cittadini, riescono poi alla fin fine a mantenere queste prerogative, qui non dico niente di nuovo, ma vorrei semplicemente risollevare il problema, è perché hanno un loro ambito di diritto e di diritti che costituisce, come noto, da molti punti di vista, i limiti dell'azione di qualsiasi titolare di potere pubblico, cioè quindi anche in questo caso di Gian Galeazzo Visconti. Ora vorrei sapere se rispetto a questo problema, in concreto, proprio come strumenti concreti dell'assoggettamento, che però non è mai a senso unico, l'assoggettamento è sempre, credo, in quest'epoca e anche più tardi, un rapporto di do-des, non è semplicemente una perdita, no? E credo che si dimostri in questo caso. Ecco, vorrei sapere se ci sono degli aspetti concreti dei trattati, delle carte, dei concordati, delle capitolazioni e che senso si può attribuire a queste. Forse la stessa cosa potrebbe valere anche per il problema del contatto fiorentino, anche se tu l'hai appena accennato. Sì, può darsi che l'espressione senza di visione strategica fosse un po' troppo perentoria. Il senso, o meglio, uno dei sensi della mia riflessione era questa: c'è una notevole differenza fra le strategie di raccordo con i poteri locali che Gian Maria Visconti adotta nel contesto lombardo, nel senso stretto, dove ha tante frecce al suo arco, quella dell'infiltrazione di cui Puntolini ha scritto più di 20 anni fa ormai, e ovviamente il rapporto con le città ha basi concrete, anche patrimoniali proprie di potere. C'è una grande differenza tra i raccordi che lui adotta con questo contesto più immediato e le scelte che in qualche misura deve fare, appunto, in realtà, dove i suoi agganci, le sue possibilità di contare passano in modo più esclusivo attraverso il comune, attraverso il comune cittadino. Quando assoggetta, per esempio, Verona e Vicenza, ha più bisogno, ai fini fiscali, ai fini, a qualsiasi fine, diciamo, per la concretizzazione della sua autorità, ha più bisogno della collaborazione diretta delle strutture burocratiche del comune di quanto non accada altrove. Ecco, la distinzione che volevo fare era sostanzialmente quella. È chiaro che dal punto di vista formale la civitas è superiore al non reconoscence tanto quanto anche nei confronti di Gian Maria Visconti, anche nel caso di queste edizioni, insomma, come poi accadrà con le determinazioni successive per quello che riguarda le città venete, appunto, evidente che dal punto di vista formale, teorico, anche nel 400 è incontestabile la loro autonomia giuridica, la loro condizione appunto di civitas superiore non riconosce. Ecco, e quindi sì, cioè, i motivi concreti appunto per cui vengono rispettate queste prerogative cittadine sono diversi. Certamente uno di questi motivi è la coscienza sicura del fatto che la leva fiscale può essere manovrata solo dalla città. Cioè, quello è una delle chiavi di volta proprio, perché solo il potere cittadino ha la capillarità, la capacità di penetrare, anche quando si patteggia, per cui molte vallate del Piacentino, vogliamo, pagano a forfait e non ricevono, diciamo così, la visita dell'esattore cittadino, o non denunciano i singoli comitatini, non effettuano personalmente la problematica. Questo è direi una delle bussole, diciamo così, dell'orientamento non solo suo, ma anche degli altri signori trecenteschi. Domanda da fare una professione, mi ricollego con la domanda del professor Lino, da ritorno un po', cioè di una maggiore insistenza, forse, o di una maggiore attenzione agli aspetti giuridici di sistemazione giuridica di tutti questi processi, insomma, dinamici. Il notariato, cioè a occhi in croce dall'esterno, secondo me è uno degli strumenti fondamentali per questo tipo di diritti, perché se no è difficile capire come è. Anche per la Germania, puoi sapere se in Germania, cioè il notariato secondo me è una cosa più interessante anche per un paragone. Potrei richiamare un bellissimo, secondo me, articolo di Bartoli Langer, che negli altri due convegno cultura e ideologia alla genetica dell'età moderna, metteva in rilievo proprio la funzione centrale del notariato appunto nella burocrazia comunale, no? Faceva riferimento proprio all'inventiva istituzionale, no? del ceto notarile, no? In un momento nel quale si possono definire strutture amministrative, appunto tra la metà, soprattutto nel corso del 200, no? Quindi è ovvio che è un veicolo fondamentale, non a caso appunto il raccordo fra notariati e regimi di popolo, che sono poi i regimi di Bologna e di Firenze, che hanno organizzazioni più compiute e più sicure e più libere a questi contatti, nel senso che possono fare e disfare territori, no? Non a caso dicevo che il corso tra notariato e regimi di popolo è così, è molto, molto forte. Poi ci sono anche aspetti più minuti, avevo accennato in un passo della mia relazione che forse poi ho omesso, e per esempio un indizio estremamente così terra-terra, insignificante se vuole, eppure in qualche modo rivelatore, è la modifica della tecnica ubicatoria a livello proprio di microtoponomastica rurale nel corso del 200. Questi sono studi che vanno fatti appunto alla piccola, analizzando la documentazione veronese si vede che ai primi del 200 appunto c'è l'anarchia più totale, no? In comitato, in territorio, ecco, in plebato dall'Italia, eccetera, no? Da un certo momento in poi cala la sala cinese, esagero un po', ma la tecnica obbligatoria si formalizza su uno schema rigidissimo per cui impertinenza comuni dall'Italia e non si sgarra perché il collegio notarile ha imposto un certo tipo di struttura. E anche qui si vede anche un modo di inquadrare il territorio, vuol dire, per cui ne consegue la necessità di definire i confini del comune rurale, c'è tutta una serie poi di conseguenze. Senza dubbio è un ruolo fondamentale. Non so se nei manuali notarili ci siano il rapporto indizi sufficienti dei collegi notarili, dei collegi notarili, la corporazione dei notari della città dominante. Ma credo che siano sostanzialmente separati, cioè è un ambito nel quale la dominante non interviene. Io ho presente capitoli di sottomissione recenteschi, comunità come San Miniato, come diciamo, quasi città, e c'è la libertà tra le condizioni iniziali, insomma, di non so come esenzione per 10 anni della casa, c'è anche la facoltà da parte di immatricolazione, non soltanto riservato evidentemente ai notai, nell'arte femminile. Si è abbastanza interessante. È uno dei tanti aspetti. Sì. Da questo lo domandavo perché, a Pisa, nel corso del 4-500, i vari collegi delle corporazioni di Sane vengono assorbiti ciascuno dalla corporazione della corporazione fiorentina e non lo so, non ricordo per notare. Il 400 lontano restano cose separatissime, anzi uno dei punti di difesa forte dell'autonomia urbana, anzi che neanche il Duca di Milano può permettere senza un privilegio solenne a un notario di Cremona di rogare a Piacenza o a Milano. La corporazione dei notai è sovrana per il suo sistema. anche se ci sono questi elementi di tanto più nel Veneto, dove appunto c'è una separazione totale, gli stessi colleghi dei giuristi dell'area veneta del 400 restano a rafforzare la città, l'ideologia municipale, cioè non c'è una circolazione di giuristi larga fra Milano e Pavia che c'è appunto in area lombarda, insomma, resta un discorso fortemente strutturato sulle città, cioè municipale, appunto, il collegio dei giuristi di Padova, di Vicenza, di Verona. Sì, proprio sul ruolo dei notai, la struttura degli ufficiali fiorentini nel territorio da 3-400 impedisce ai, diciamo, ai ceti delle città sottomesse l'accesso ai ruoli direttore di ufficiale territoriale, però questa è aperta a livello proprio di notai. E allora i notai non soltanto delle città sottomesse, ma soprattutto delle aree dei comuni rurali, possono circolare all'interno del funzionariato, diciamo così, fiorentino, e condizione per poter essere notai del capitano fiorentino, per dire a Cortona, è proprio quello di essere immatricolato nell'arte fiorentina. Quindi questo è abbastanza interessante, sempre in questa chiara. Es ging also jetzt um die Frage, welche Bedeutung hat das Notariat in dieser ganzen Entwicklung? Offensichtlich besteht ein Zusammenhang zwischen der Ausbildung oder zwischen der Kontrolle der Ausbildung der weitgehenden Verwaltung und der Entwicklung des Notariats. Es hat der Varanini darauf hingewiesen, dass das der Ruf nachweisbar ist im Bereich von Verona, wo ursprünglich etwa in den Notariatsinstrumenten die Ortsbezeichnungen sehr verschieden stilisiert sind, also in Levato oder in dem Bereich, und ab einem bestimmten Zeitpunkt gibt es eine einheitliche Nomenklatur. Man nimmt also zur Kenntnis, dass hier ein Territorium entstanden ist. Und das spiegelt sich dann auch im Formular der Notare wieder. Die Frage ist, ob Professor Belandi aufgeworfen worden ist, gibt es Beteiligung von Notariatskollegien oder welche Beziehung stehen die Notariatskollegien und die einzelnen Regierungen? Ist es dann möglich, dass ein Notar in einer unterworfenen Stadt in das aufgenommen wird, in das Kollegium der Bundesrepublik Stadt? Oder wie ist dieses Verhältnis? Und da scheint es doch verschieden gewesen zu sein. In Mailand und auch im venezianischen Bereich existieren auch im 14. und 15. Jahrhundert noch eigene Kollegien in den unterworfenen untergebenen Städten. Also es gibt ein Notariatskollegium in Marburg weiterhin oder auch in anderen Städten, also die nicht angeschlossen sind an Venedig etwa. Der Hinweis dann auf die Verhältnisse in Florenz. In Florenz ist es durchaus möglich, dass Notare aus den unterworfenen untergebenen Städten im gesamten florentinischen Raum ihrer Tätigkeit nachgehen. Also nicht nur in der eigenen Stadt. Für der Vergleich von den Norden ist ernüchternd in dieser Hinsicht, denn es gibt, glaube ich, bei uns im 13. Jahrhundert kaum Zusammenhänge zwischen Notariat und Ausbildung, etwa des Landesfürstentums, landesfürstliche Verwaltung. Was wir gestern gehört haben, dass die Träger dieser landesfürstlichen Verwaltung, wenn wir uns auf das 13. Jahrhundert beschränken, sind in erster Linie Geistliche, die also schreiben können und die herangezogen werden, sowohl bei weltlichen als auch bei geistlichen Landesherren. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts kann sich das ändern, dort kommen dann Juristen zum Zuge, nicht aber Notare im engeren Sinn. Das Notariat ist nämlich der Alten, wie wir alle wissen, wesentlich schwächer ausgebildet, und der ganze Stamm der Notare, also eine staatstragende Zunft sozusagen, wäre, glaube ich, in der Alten nicht vorstellbar. Das sind wirklich zwei verschiedene Dinge, Norden und Süden. Physik, Sì, il vicino di Pio Chino. Solo chiedo una cosa, Pazzotti. L'importanza dei notai vorrebbe dire che la professionalità notarile è l'unica possibilità di un'ascesa tramite l'amministrazione centrale locale dello Stato fiorentino per un personaggio che nasce in una città sottomessa o in una città di comunità. Non c'è altro modo di inserirsi all'interno dell'amministrazione, anche locale fiorentino. L'amministrazione locale qua? No. Centrale o? Centrale, sì. La realtà è che non sono posto il problema per l'amministrazione centrale. Comunque per l'area, per la circolazione di uffici e ufficiali territoriali, parte dal presupposto che invece, di natura tecnica giuridica, giudici e notari che spesso e soprattutto nei centri soggettati di natura urbana, delle città di tradizione comunale, devono accompagnare questi territori, sono aperti alla circolazione di distrettuali e anche di personaggi provenienti dalle zone di serbatoio tradizionale di questa amministrazione, cioè l'area Mura Marchigiana, per esempio, fornisce moltissimi notari, moltissimi giudici, che sono giudici, per esempio, che abitavano Fiorentina Pistoia, così via. Quindi dal distretto si viene soprattutto dai centri delle quasi città, dei centri borbigiani, e l'unico canale di accesso è proprio questo, che passa attraverso comunque appunto la immatricolazione nell'arte dei giudici fiorentini. Altre domande? Sviluppo da parte dei colleghi tedeschi di questi aspetti, secondo me è un problema dei funzionari rispetto al sviluppo del volontariato, eccetera, è interessante. Il professor Rittman prima ci ha detto che non esiste dalle altre questa funzione del volontariato, ma che appunto le funzioni del servizio di espansione territoriale della signoria sono ancora nella maggior parte di vita a chiedici, cancellieri, ma nella costruzione di maglie territoriali, come si può dire qualcosa di più, professor Rittman? Adesso sono io qui. Sì, se è un fai che si può fare la sfida di sorreggersi, geografischen Einteilung der einzelnen Territorien parallel stattfinden. Also im Süden wie im Norden, man gehört, dass ein Instrument der Territorialisierung war eine neue Umschreibung der Verwaltungsstränge, wenn man das so bezeichnen könnte. Gibt es auch nördlich der Alpen diese Politik, dass man neue Verwaltungsstränge einrichtet, die sich an älteren Ursprüngen orientieren können, etwa an kirchlichen Institutionen, die berühmten Kirchspiele, von denen wir gehört haben, oder in einem zweiten Schritt, dass man tatsächlich neue Umschreibungen vornimmt, also auf dem Reichsbrett offenbar, so wie es die Regionaldinge erfordern, auf dem Reichsbrett eine neue Organisation des Landes durchführt. Kann jemand dazu was sagen? Also immer 12. bis 14. Jahrhundert. Nach welcher Methode ist das Landesfürstentum imstande, das Land neu zu organisieren, also in geografischer Hinsicht? Also ich glaube doch, dass weitgehend die Ämtereinteilung eine Neuorganisation darstellt, wenn sie nicht überhaupt die erste durchgängige Organisation des Landes ist. Das heißt, in diesem konkreten Fall hätte die Landesherrschaft das Land nicht nur neu organisiert, sie hätte es überhaupt zum ersten Mal sozusagen durchorganisiert, muss man sozusagen einen echten, das Land sozusagen als ein Organisationsorganismus also geschaffen. Und ich sehe hier durchaus vergleichbare Möglichkeiten, zumindest doch an einzelnen Amtsbildungen kann man erkennen, dass die nach rationalen Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten gegliedert worden sind und das entspricht ja dieser Funktion der Ämtereinteilung, also im 14. Jahrhundert, auch in den italienischen, also Stadtstaaten. Wenn ich gerade das Mikrofon in der Hand habe, darf ich vielleicht noch eine Frage stellen. Ich habe den Eindruck, nach Ihrem Referat, dass offenbar doch auch in den italienischen Staaten eine Tendenz besteht, von einem Regimen per Plures zu einem Regimen per Unum. Das heißt also, dass das Regiment der italienischen Staaten dem der übrigen europäischen angleicht. Gibt es dafür eine Erklärung? War sozusagen das Regimen per Unum die effektivere Form der Staatsgestaltung in Anführungsstrichen? Das würde mich mal interessieren. Ich habe keine Ahnung. Se non ho capito male, appunto, il sito riguarda sostanzialmente le origini della signoria, che è il modo col quale appunto si arriva ad un reggimento monarchico in diverse città dell'Italia centro-settentrionale in questo periodo. Le forme di questo passaggio appunto sono note, no? Normalmente è concio, la rengo, l'assemblea dei cives che conferisce ad una persona una autorità variamente definita che si concretizza nell'arbitrium sugli statuti e su quell'insieme, diciamo così, di organismi che concretizzano appunto l'autorità del comune. Quindi è dal punto di vista giuridico è appunto il classico problema appunto della delega, diciamo, no? Il passaggio per delega dalla pluralità di soggetti aventi diritto, no? Come collegio, come collegio, come collegialità, ad una persona che esercita una autorità dal punto di vista formale, a nome e per conto appunto del comune, della collettività, e qui si imposta appunto poi il problema del riconoscimento di queste autorità, che come è noto appunto assalta la sicale poi, perché il vicariato il riconoscimento del vicariato di Monteo, come già stato studiato 1859, e si posa appunto questo problema del riconoscimento di questa autorità che viene dal basso. Se mi è consentita così un'aggiunta che c'era in parte tra le righe nel mio intervento, appunto volevo così insistere o ribadire su un concetto, un'idea che secondo me è significativa perlomeno per alcune delle signorie cittadine italiane, che la contrapposizione va sdrammatizzata, va smitizzata, no? Cioè, nei casi di Mantova, di Padova, di Verona, della stessa Corrado, c'è la prova sicura, diciamo così, del consensus civium a questo conferimento di diritti. Diritti signoriali, no? Cioè, al di là appunto dei dibattiti, delle discussioni che subito poi nascono dal punto di vista teorico sulla tirannia, eccetera, no? E c'è così un consenso globale, diciamo così, che nasce proprio in molti casi dalla capacità di queste persone di interpretare gli interessi collettivi. E ultima aggiunta. Si deve anche ricordare che in molte di queste città, per esempio appunto Verona o Ferrara o Mantova, le esperienze vere di regime comunale prima dell'avvento della signoria erano state tutto sommato limitate, cioè si passa dall'aristocrazia consolare, diciamo, no? del comune consolare, alla dominazione del Papa Veneto di Enzerino da Romano, un'esperienza di popolo brevissima che dura pochi anni, e poi appunto c'è in diversi casi l'avvento della signoria. Quindi, come dire, questa abitudine di fatto psicologico-culturale ad avere un'autorità sopra di sé ha ancora con delle forti radici culturali, diciamo, ecco, nel fondo della popolazione urbana. Ecco. Il discorso va poi appunto drammatizzato, credo. Wieder versuchen eine Zusammenfassung, also die Frage geht nach dem Ursprung der Signorie. Rein rechtlich ist es klar, dass eine Delegation der Möglichkeiten der Rechte von Seiten des Volkes, des Arengas, der Volksversammlung, auf eine Person, die dann im Namen der Kommune eben diese Herrschaft ausübt. Die andere Frage ist die Anerkennung dieses Aktes von der übergeordneten Instanz her, das erfolgt dann und das öfter durch die Verleihung des kaiserlichen Vikariates. Das wäre also auf beiden Ebenen rechtlich abgesichert. Dieser Konsensus der Zivis ist offensichtlich in vielen Fällen vorhanden. Also eine ganze Reihe der Signorien entstehen tatsächlich durch den Willen des Volkes, nicht durch Usurpation. Und es verstehen auch diese Signores offenbar die Interessen des Volkes oder weitesten Kreis des Volkes zu artikulieren und zu vertreten. Man muss dabei auch nicht vergessen, dass die Erfahrungen von vielen Städten der kommunalen Epoche nur von kurzer Dauer sind. Es gibt nur kurze Perioden, wo die Kommune funktioniert hat, und lange Perioden, wo sie eben in größten Schwierigkeiten war, wo also keine normale kommunale Regierung überhaupt funktioniert hat, und auch deshalb vielleicht die Neigung, ja, vielleicht ist das der falsche Ausdruck, aber der Ruf nach einer starken Hand, die das erfolgreich weiter die Politik, die von den Bürgern betrieben wird, betreibt. Gewünscht wird, dass diese Politik betreibt. Volevo riprendere il punto della domanda del professor Reinhard sul diritto, professor Vinova e verso il diritto romano, perché mi pare anche a me un punto molto importante, nel senso che, e poi è uno sviluppo non senza ambiguità, mi sembra, perché indubbiamente nel corso del XII e XIII secolo si avverte la crescita, diciamo, di una cultura politico-giuridica che sente molto il diritto romano, non anche nei documenti più vari, le arenghe di documenti comunali, per dire o cronache, eccetera. Prego. Ecco, io poi non... La cosa singolare è questa, che non c'è però un uso del ceto dei giuristi di questo diritto romano a sostegno del comune per molto tempo. No? Cioè il diritto romano aiuta a proporre una nuova idea del potere, diciamo, dello Stato, ma questo per molto tempo non si identifica col comune cittadino, molto spesso è contro il comune cittadino l'uso colto del diritto romano. I giuristi per buona parte del XIII secolo non danno validità agli statuti cittadini, come si diceva 2 o 3 anni fa, no? Però questo non impedisce che la cultura urbana assorba ugualmente e usi a suo favore questa nuova cultura giuridica di derivazione romana. È solo nel corso del XIII secolo, direi con Bartolo e così, che c'è allora un riconoscimento al comune cittadino di un'entità capace di rivestirsi formalmente di quelle prerogative del potere che prima erano riconosciute, però magari all'imperatore, in contrapposizione al comune cittadino. Sono una giunta, cioè, ci sono aspetti come la procedura criminale, aperta da Bandino, il trattato del Trattato de Maleficis, dove l'utilizzazione è diretta, ci sono tanti altri aspetti in cui effettivamente non è un lineare. per questo la domanda ai colleghi, la domanda insomma, è questo, la sottolineatura che si fa per il mondo tedesco dell'importanza del diritto romano, a favore di quali dei poteri che operano nel territorio tedesco, le città, i principi, l'impero, a favore di quale di questi poteri agisce di più? Da che cosa è che aiuta di più il diritto romano? Non so, in questa concorrenza di poteri. Den Einfluss des römischen Rechts kann man bei uns in dieser frühen Zeit, also im Laufe des 13. Jahrhunderts, eigentlich vielleicht nur oder vor allem in den Urkunden kann man ihn lesen, in fünf Packen, also in den Urkunden. Und die Urkunden kommen aus fürstlichen Kanzleien, ganz überwiegend. Also ich habe mich aber nun, muss ich sagen, mit der Stadt weniger beschäftigt. Und bisher nicht nachgeforscht, ob dort in den Dokumenten aus städtischer Herkunft auch solche Spuren festzustellen sind. Ich weiß das eigentlich nicht, worüber das zusammen, vielleicht kann Herr Linkmann dazu was sagen. Aber es scheint mir sicher zu sein, dass es in den Urkunden aus fürstlichen Kanzleien juristische Begriffe gibt. Es gibt dort von einem gewissen Zeitpunkt an, etwa 1220, 30 beginnt das und es steigert sich. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts finden wir zum Beispiel in den Würzburger Urkunden sehr viele Formeln, die gibt es, die kommen aus juristischen Schriften. Man muss sie nur parallel lesen, das ist das methodische Problem. Und weil ich nun Rechtshistoriker bin, kenne ich beides etwas und das, da ist mir das aufgefallen, dass es das gibt. Es ist mir zum ersten Mal aufgefallen in so einem entlegenen Territorium wie Schlesien. Im schlesischen Urkundenbuch, das nun eine sehr gute moderne Edition ist, kann man etwa von 1220, 1230 an feststellen, dass dort bestimmte Begriffe verwendet werden, die kommen hier aus Italien, aus Bologna, also zum Beispiel Dominium Plenum. So etwas und ähnliche. Oder dann später das, die verschiedenen Beschreibungen der Jurisdiktion. Das sind rechtstechnische Begriffe, die haben die Kanzleischreiber schon irgendwo gelernt. Und diese Begrifflichkeit nimmt zu. Im 14. Jahrhundert ist das ganz stark vertreten. Also es sind durchaus die fürstlichen Kanzleien, sowohl geistliche wie weltliche, in denen das auftritt. Aber das geht, dieser Einfluss ist zu beobachten in sehr kleinen Schritten. Sehr kleinen Schritten. Nicht? Es ist und ich persönlich glaube, dass der Eigentumsgedanke eine sehr große Rolle dabei spielt. In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts spricht man überall vom Dominium und das ist nicht mehr so sehr Herrschaft, das wird mehr wie Eigentum verstanden. Es ist auch die Zeit, in der fast alle großen deutschen Dynastien erbrechtliche Geschäfte zu machen beginnen. Sie haben Erbteilungen und Erbstreitigkeiten. Sie denken jetzt in der Kategorie des Privatrechts. Aber auch zum Beispiel eine ganz moderne Staatsgründung. Vielleicht können wir darüber noch sprechen, wenn der Herr Klein seinen Vortrag hält. Eine ganz moderne Staatsgründung ist der ist Preußen, der Ordens, der Staat des deutschen Ordens, nicht das alte Prussien. Dort ist es auch so, dass der Orden, obwohl keine private Dynastie, sondern ein Mönche, davon ausgeht, dass das ganze Land ihm gehört, als Eigentümer. Das ist ganz sicher, das ist in der Forschung über dieses Territorium sicher bezeugt. Und ich glaube, dass dies Einflüsse römischen Rechts sind. Qualcuno può verificare? Posso azzardarmi io? Ecco, magari è un momento senso. Ecco, in sostanza pensare che il professor Pirro avrebbe detto che la diffusione di questi concetti provenienti dal diritto romano è stata trovata da lui soprattutto o esclusivamente nel Volkunde, cioè nei documenti di provenienza cancelleresca, sia di cancellerie di principi laici che di principi ecclesiastici. Non si è occupato particolarmente delle città, quindi insomma non può escludere assolutamente che esistano anche in documenti di provenienza cittadina, però dal 1220-1230 sono molto cominciano a comparire nei documenti cancellereschi e si fanno sempre più frequenti nel corso poi del secolo e soprattutto nel XIV secolo. Comunque per Villova questi concetti di provenienza italiana che facevo un esempio, si trovano in atti di provenienza spesiana fino appunto dal 1220-1230 e sono concetti come dominium plenum e iuris dictio, ecco, si diffondono un po' a piccoli passi e permane fondamentale per tutta la prima metà del 200 il concetto di eigentum, di proprietà, cioè dominium, che si trova spessissimo in questi documenti, ancora un po' inteso per tutta la prima metà del 200 come possesso. E quindi questo è anche il periodo, infatti, in Germania delle più grosse tensioni, delle più grosse lotte ereditarie e spartizioni ereditarie all'interno dei vari stati. E per dimostrare la forza di questo concetto di proprietà, citava il caso della Prussia, che pur essendo uno stato di pertinenza non di una dinastia, ma di un ordine cavalleresco, appunto risente di questo concetto di proprietà in quanto l'ordine ci tiene a precisare che tutta la terra, cioè proprio nel senso del terreno, è di proprietà dell'ordine, cioè è un suo possesso. Professor Prodi, cediamo a una riflessione. Grazie a tutti, allora oggi alle 3, va bene?